Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia di questa settimana. I temi della giornata economico-finanziaria ancora a cavallo, devo dire come dall'inizio di questa settimana, tra Europa e Italia. Perché? Perché oggi, adesso ne parleremo, è arrivato non una bocciatura in senso stretto, ma un semaforo, mettiamolo così, giallo sulla legge di stabilità italiana, sulla quella che una volta si chiamava legge finanziaria, e soprattutto Bruxelles ha detto no alla richiesta italiana di avere il cosiddetto bonus sulla spesa del 2014, bonus dell'Unione Europea. In sostanza è quello che hanno ottenuto Francia e Spagna, cioè avere un deficit sopra il 3% e rientrare più tardi. Perché Bruxelles dice no? Perché dice avete un debito troppo alto che non si è evoluto in modo favorevole perché continua a aumentare e quindi non vi diamo il bonus. E tra l'altro dice che la legge di stabilità mette l'Italia a rischio sforamento. C'è una elevata possibilità che non rispetti i parametri sul debito e tra l'altro accusa sempre l'Unione Europea l'Italia di aver fatto progressi limitati sulle riforme, pochi passi avanti dopo le raccomandazioni europee di maggio. Ancora, dice Olli Rehn, il commissario europeo agli affari economico-monetari, anzi scusatemi, lo era, è adesso il vicepresidente della Commissione Europea, ha detto attenzione, contiamo molto sulla spending review e quindi sulla riduzione della spesa pubblica, migliorandola, non semplicemente tagliandola in maniera orizzontale. Su questo a mio avviso il governo ha dato delle stime leggermente ottimistiche, però e sentiamo intanto Rehn e poi partiamo con le notizie in breve. According to their draft budgetary plans, and our autumn forecast, they are, however, secondo le bozze di legge presentate e le nostre previsioni, la nostra valutazione è che l'Italia è a rischio di non rispettare le regole sul deficit contenute nel patto di stabilità e di crescita. La conformità dell'Italia alle regole del debito è a rischio il prossimo anno, poiché gli adeguamenti strutturali non sono sufficienti per far rispettare i requisiti di debito che sono stati recentemente introdotti con le ultime riforme approvate. Riguardo all'Italia, posso dire che il governo ha sottolineato il suo impegno a continuare nel programma di riforme economiche per aumentare la produttività e la competitività. Tra queste, la spending review, che sarà focalizzata sulla riforma della pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni, a livello centrale e locale. Contiamo su un forte ed efficace rispetto degli impegni da parte del governo e del Parlamento italiano, sulla base dell'importante revisione delle spese e del prezioso lavoro che è in corso da parte di Carlo Cottarelli. Expenditure review work. Insomma, Santo Cottarelli, salvaci tu. In realtà mi sembra, come si diceva una volta, troppa grazia a Sant'Antonio, perché adesso Rehn ha anche detto, adesso poi lo ascolteremo, che l'Italia deve andare avanti sulle privatizzazioni. Però, restiamo un secondo sulla spending review. E poi purtroppo oggi ho altre notizie su chi la spending review non sa proprio cosa sia, mi riferisco ai costi della pubblica amministrazione di Montecitorio, di quant'altro, delle regioni. Però avete sentito il vicepresidente Olli Rehn, il ministro Saccomanni ha detto oggi dall'Unione Commissione Europea non c'è nessuna bocciatura, e adesso lo ascolteremo, non c'è bisogno di fare cambiamenti alla legge di stabilità, ci sono già le misure per gli obiettivi. Le misure che la Commissione chiede sul debito sono in fase di definizione, però la cosa che mi ha fatto impressione è che il ministro Saccomanni ha detto dalla spending review, cioè dall'azione di Carlo Cottarelli, arriveranno 1-2 punti percentuali di risparmio, immagino, sulla spesa complessiva. Ora, siccome la spesa complessiva è di circa 830 miliardi, la spesa pubblica complessiva, a casa mia 1-2 punti vogliono dire dagli 8 ai 16 miliardi, dagli 8 ai 16 miliardi. Saccomanni, io capisco l'ottimismo della volontà, ma insomma state attenti a lanciare queste cifre. Io mi auguro che Cottarelli riesca a tagliare di 1-2 punti la spesa pubblica. Faccio solo notare che Enrico Bondi, il precedente commissario alla spending review, che non era l'ultimo degli arrivati, ha risanato anche Parmalat, aveva individuato tagli per 4 miliardi di euro nel triennio 2012-2014, però quelli effettivamente attuati hanno superato di poco i 2 miliardi. Ora, se Cottarelli riesce a portare diciamo uno o due punti dagli 8 ai 16 miliardi di spending review, gli facciamo un monumento, anche se non dovrebbe essere difficile tagliare di 2 punti percentuali la spesa della pubblica amministrazione. Chiedete a qualunque famiglia, visto che parleremo dei consumi, se non è stata in grado in questi anni di ridurre non di 1 o 2 punti ma del 10-20% i consumi e le spese. Però adesso ci arriviamo, intanto sentiamo Saccomanni cosa ha risposto all'Unione Europea, alla Commissione Europea. Ha detto no, non siamo stati bocciati. Siamo incoraggiati dal fatto che in nessun paese ci sono deviazioni serie e che diciamo non c'è bisogno di fare aggiustamenti sui bilanci in corso. Quindi ho letto da qualche parte che dice questa è una brutta storia, non mi pare che sia una brutta storia, è una storia in corso, è un dialogo che noi stiamo facendo, la Commissione ci dà delle indicazioni, questo rafforzerà sicuramente l'attività del governo nelle prossime settimane e questo diciamo è un fatto che diciamo, io considero positivo. Vabbè, io invece continuo a non capire perché insomma, va ben tutto, però insomma, dire che adesso dall'Unione Europea ascoltare Saccomanni, il ministro Saccomanni, sembra quasi che ci abbia fatto i complimenti. Io, leggendo le dichiarazioni, insomma, l'Unione Europea dice la legge di stabilità mette l'Italia a rischio sforamento, c'è un'elevata possibilità che non rispettiate i parametri del debito, i progressi sulle riforme sono limitati, il debito italiano è troppo alto, non avete nessun margine sugli investimenti e non vi daremo il bonus. Non so che altro mancava, un calcio negli stinchi per essere contenti. Comunque Olli Rehn, il vicepresidente nonché commissario degli affari economico monetari dell'Unione Europea, ha detto anche dovete andare avanti con le privatizzazioni, quella è la giusta direzione. As regards the sale of state assets, my understanding is that per quanto riguarda la vendita di beni pubblici, da quanto ho capito il governo punta ad accelerare la privatizzazione e la vendita di asset pubblici e certamente considerando l'alto livello del debito italiano queste sono misure importanti e appropriate. E anche qui risponde il ministro Saccomanni da Bruxelles, le misure che la Commissione richiede sul debito sono in fase di definizione ed avranno effetti sul corso dell'anno. La discussione sulla legge di stabilità è ancora in corso in Parlamento e noi abbiamo chiaramente dato delle indicazioni che mi pare siano state riprese anche dal vicepresidente Olli Rehn sul fatto che le misure ulteriori che la Commissione richiede in relazione al fatto che abbiamo un debito elevato sono già state prese in considerazione, sono in fase di definizione e avranno effetto nel corso dell'anno. E il punto centrale che poi il vicepresidente Rehn ha ripreso appieno è che diciamo questo non significa che l'Italia non potrà avvalersi della clausola di investimenti se, come del resto noi stessi abbiamo auspicato nella spending review ma anche in altre misure, ci saranno appunto degli elementi che consentiranno di ridurre il peso del debito e di essere in linea con la clausola di aggiustamento strutturale al parametro del debito. Posso dire che non ho capito nulla. Cioè, vabbè, ci saranno delle misure che ci porteranno in linea con il debito che chiede l'Europa. Quali misure? Dove andranno a colpire? Boh. Auguri vivissimi al commissario della Spending Review Cottarelli. Non vorrei essere al suo posto perché anche una volta individuati i tagli, speriamo che siano da 10-15 miliardi, poi voglio vedere le opposizioni. Ripeto sempre quello che la nostra spesa pubblica, alcune voci che non si possono toccare, soprattutto stipendi, però ci sono 140 miliardi di spese per beni intermedi, e lì attenzione perché ogni amministrazione ha il suo centro di costo. Ci sono 300 centri appaltanti, no, 300 sono pochi, erano qualche migliaio, adesso vi do la cifra esatta, centri appaltanti in questo paese, cioè centri che possono indire gare per la cancelleria, per le fotocopiatrici, per l'acquisto di un'automobile, per rifare un ufficio. Ecco, su questi 130 miliardi un risparmio almeno del 10%, non si riesce a fare, sarebbero già 13 miliardi, avremmo fatto metà manovra finanziaria. Che cosa devo dire ancora? Ripeto, chiedete a una famiglia italiana media se non ha risparmiato il 10% in questi 4 anni, porca d'una miseria. Tant'è che oggi la Confcommercio, tra poco ne parliamo, dice che la ripresa, col cavolo che nei consumi ci sarà nel 2014, ma adesso vi arriviamo. Nel frattempo l'inflazione nell'area europea, ha ragione la Banca Centrale a essere preoccupata, precipita a un più 0,7% su base annuale, quindi nell'intero anno, a ottobre rispetto all'anno prima siamo un più 0,7%. L'Europa è tecnicamente in deflazione a ottobre, meno 0,1% rispetto a settembre. Perché lo dico? Perché l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea, lo ricordiamo tutti, ha come obiettivo un'inflazione intorno al 2%. Non va bene se è superiore, ma non va nemmeno bene se è inferiore. La logica è sempre quella, attenzione, un'inflazione, una deflazione tende a far rinviare tutti gli acquisti perché uno si aspetta che i prezzi calino, e soprattutto crea un grosso problema ai debitori, perché un debitore con un'inflazione al 2% a fine anno, diciamo, se deve 1000 dovrà il 2% in meno, 998 euro, con una deflazione devi ridare di più in termini reali rispetto al prestito. Attenzione anche a questo. Però chiudiamo sull'Italia, perché adesso devo spiegare invece come non si fa la spending review in sto paese. Due notizie ancora rapide. Il Sole 24 Ore lancia un allarme oggi sul sito, l'articolo è di Federico Rendina. Potrebbero esserci dei problemi sulle forniture di gas, perché i fattori di rischio si chiamano gasdotto dalla Libia che è bloccato, Russia e Ucraina che sono di nuovo ai ferri corti, sappiamo che è successo quando l'Ucraina bloccò il passaggio di gas russo, e ritardi nelle nuove infrastrutture. Inoltre la Norvegia starebbe esaurendo i giacimenti, ha ridotto le forniture del 7% e un calo del 16% si registra anche dall'Algeria, paese che non ha una situazione sociopolitica stabilissima. È un avvertimento, un rischio, non è una certezza. Dicevo, questo oggi lo trovate sul sito del Sole 24 Ore. Ancora, per quello che riguarda le notizie di casa nostra, mentre il Centro Studi Promoto segnala che a ottobre i consumi di benzina sono calati del 3,5%, e questo potrebbe portare, assieme al calo dei consumi per gasolio dell'1,2, un miliardo in meno nelle casse dell'erario, 960 milioni, che potrebbero diventare più di un miliardo a fine 2013. Mastrapasqua oggi si è ricreduto, o meglio, forse almeno si stava zitto ieri, ha detto le pensioni dell'INPS sono state pagate oggi, lo saranno per sempre. Ha continuato, non c'è un problema nel rischio finanziario, nessun allarmismo da fare sui pensionati che lavorano tutta la vita ed hanno diritto ad avere le loro pensioni. Sì, magari, lo dico col massimo rispetto per il presidente dell'INPS, magari non avere 25 incarichi forse permette anche di concentrarsi meglio su alcune dichiarazioni. Io non so come faccia veramente avere 25 incarichi, a parte che penso che sia sbagliato sia nel privato, a maggior ragione nel pubblico, avere sedere in 25 diverse consigli di amministrazioni o comitati, obiettivamente non si può sentire. Così come è meglio che qualcuno avvisi il ministro Lupi che Aeroflot non ha alcuna intenzione di acquistare Alitalia, né parteciperà in alcun modo al suo finanziamento. Lo ha detto ufficialmente il portavoce della compagnia russa. Basta continuare a citare Aeroflot, a questo punto è rimasto cosa? Air China? Boh. Etihad? Boh. Mi sa che quello che si diceva ieri probabilmente capiterà a marzo-aprile, Alitalia diventa francese, magari i francesi avranno qualche, saranno meglio disposti se avranno migliorato il conto economico e avranno visto un piano industriale serio. Non capisco chi altro se la debba comprare, forse ce la compreremo noi l'Italia, non lo so. E adesso arriviamo ai consumi degli italiani, però visto che abbiamo parlato di spending review, c'è una notizia che arriva dalla Cina che fa sorridere, ma in realtà è una notizia molto seria. La Cina abolirà ufficialmente il sistema dei campi di lavoro per migliorare i diritti umani e le pratiche giudiziarie. Lo ha scritto l'agenzia Nuova Cina. I campi di lavoro erano un sistema alternativo al carcere per tutti quelli che avessero commesso reati puniti fino a 4 anni di carcere. Invece che andare in carcere, passavano 4 anni nei campi di lavoro, di rieducazione, istituiti da Mao Zedong nel 1957 per punire i reati minori. Secondo le Nazioni Unite, nel 2009 c'erano ancora 190.000 persone detenute nei campi di lavoro cinesi. E quindi erano utilizzati anche per fare piazza pulita rapidamente tra i delinquenti, ma anche per punire i contestatori, i dissidenti politici. So che alcuni di voi invece vedrebbero con favore i campi di lavoro per alcuni nostri amministratori e politici, ma non solo, anche certi manager, ma questa è solo una battuta. Non è purtroppo una battuta quello che vi sto per raccontare. Ah, non ho detto le borse, avete ragione, scusatemi, mi blocco un secondo, chiedo venia, poi ne parliamo fra un quarto d'ora. Meno 0,40% Milano, più 0,20% Parigi, più 0,30% Francoforte e più 0,40% Londra. Molto bene Salvatore Ferragamo e il lusso oggi in generale, Ferragamo più 7%, e ancora Mediolanum più 2,80%, Diassoni più 2,60%, Fondiaria più 2,30%, come Ansaldo STS più 2,30%, negativa la Pop Milano di un 3%, Pirelli del 2,20%, come Intesa San Paolo, il Monte dei Paschi all'indomani del piano PE del 2%, Mediaset dell'1,90% come Buzzi Unicem. Chiusa la borsa, dicevo, al di là dei campi di lavoro, io mi auguro che Cottarelli riesca a fare questa riforma della spending review. I segnali che stanno arrivando sono di tutt'altro genere, e allora il nostro inno un po' anni 80, niente resta per sempre, anche voi prima o poi smetterete di fare e comportarvi in questo modo, anche perché ci state mostrando sempre la solita scena. E ora parliamo delle regioni, ma anche degli resti e della Camera dei Deputati. Allora, la Camera dei Deputati ha previsto nel budget 2013-2015 ben 6.235.000 euro da destinare a presentazioni di libri, convegni, tavole rotonde, concerti, premi letterari. Ma è necessario? Cioè, è necessario? Uno presenta un libro gratis, uno fa un convegno, fatelo gratis, fate una tavola rotonda gratis, il concerto, mettetevi d'accordo. Ma perché la Camera dei Deputati deve spendere 6 milioni e 235 mila euro? Ma li desse a associazioni culturali vere sul territorio? Un bel gesto. Avremmo voluto presentare il libro del deputato che venderà 800 copie, comprese quelle omaggio, o dell'ex deputato, del politico, ma invece non lo faremo, e questi soldi li diamo sul territorio. Individuate 20 fondazioni, 20 centri culturali che lavorano veramente, magari in zone di degrado, associazioni sportive, associazioni culturali vere, e datele con il contributo della Camera dei Deputati, così magari la vostra allure e la percezione che ha l'opinione pubblica della Camera dei Deputati vedrai che un po' migliora. E soprattutto, ma si può sentire che c'è anche un direttore artistico alla Camera dei Deputati? Un direttore artistico, 150.000 euro l'anno, ma non ce l'abbiamo noi Radio 24. Non ce l'abbiamo avuto, no? Ma dico, un direttore artistico, ma che cavolo serve il direttore artistico? Ho capito che sembra un teatrino, so già la battuta, ho capito che sembra un circo, ma serve il direttore artistico a 150.000 euro l'anno? Dai, fate questo bel gesto, ci stiamo avvicinando al Natale, ci sono tanti preti, volontari, onlus che lavorano, che danno una mano a famiglie in difficoltà, a padri separati, a madri separate. Ma porca miseria, ma levatevi sti 6.235.000 euro, sono 2 milioni e passa all'anno. Tanto poi, voglio dire, la cultura media dei deputati se aumentasse. Vabbò, lo spread, qualcuno si ricorda lo spread, l'inchiesta sullo spread. Va bene, il Sole 24 Ore oggi sul sito online cita un'altra inchiesta invece. Da nord a sud, la metà dei 20 consigli regionali italiani sono sotto inchiesta per spese gonfiate o truccate. Meno male che le regioni dovevano rappresentare un elemento virtuoso in un processo federale, queste hanno imitato Roma e anche peggio. Allora, il Sole 24 Ore oggi ha fatto un'analisi su 1356 presidenti, assessori, consiglieri, già sono un'infinità. 280 sono stati indagati negli ultimi tre anni, 62 in Lombardia, 20 in Friuli, 10 nel Lazio, 13 in Calabria, 53 in Campania, 1 in Puglia per appalti. Poi 52 indagati in Piemonte, dove spese per 1.300.000 euro sono risultate irregolari. 33 consiglieri sardi dovranno presentarsi davanti al giudice con accuse di peculato, truffa e concussione. Gli 11 consiglieri liguri poi ci sono coinvolti nel caso delle spese pazze. Ci sono poi le frequentazioni di un assessore molisano di un nightclub romano, tutte pagate con fondi pubblici. L'assessore alla cultura abruzzese che è in carcere perché con i soldi destinati a eventi culturali si pagava alberghi, ristoranti, champagne e qualcuno che lo bevesse assieme a lui. Cioè, qua della cultura in questo paese si hanno idee molto strane, no? I 9 capigruppo della regione Emilia-Romagna, di tutti gli schieramenti, ahimè, anche il Movimento 5 Stelle, dico ahimè perché doveva essere una novità, che devono chiarire le 35.000 voci di spesa, 35.000 voci di spesa costate 3 milioni di euro in 19 mesi. Ma vogliamo adottare dalla Cina anche noi la rieducazione nei campi? Magari quelli della Terra dei Fuochi? E poi la vicenda Ligresti. Allora, al di là della situazione del ministro Cancellieri che continua a complicarsi, lo dico con la massima neutralità, perché secondo i tabulati in mano agli inquirenti sarebbe stata la Cancellieri a chiamare e non a essere chiamata, come affermato in un primo momento, e nei giorni scorsi era anche emerso che Ligresti si era adoperato con il presidente del Consiglio Berlusconi per il mantenimento della Cancellieri nel ruolo di commissario prefettizio a Bologna. Ne abbiamo parlato in merito anche alla vicenda che vede coinvolto l'ex presidente dell'ISVAP Giancarlo Giannini, che in cambio di una raccomandazione di Berlusconi da parte, cioè Ligresti chiese a Berlusconi di mettere Giannini all'antitrust, in cambio Giannini ha ostacolato e rimandato tutte le indagini e i controlli su Fondiaria Sai, società in cui per dettaglio ha lavorato il figlio dal 2005 al 2006. Ma adesso stanno spuntando i nomi di chi è stato ospite a spese degli Ligresti nelle varie strutture turistiche del Tanca Village, che ha creato un bel buco che si è tutto accollato. La società era Ata Hotel, acquisita da Fondiaria Sai, hanno scaricato su Fondiaria Sai i loro problemi privati, Ligresti. Allora, chi andava al Tanca Village in Sardegna e in altri hotel dell'Ata Hotel, oltre ad amici di vecchia data come La Russa, ma anche Bruno Tabacci, c'è andato l'ex ministro degli interni Beppe Pisanu, che arrivava e se ne andava in elicottero. Ci sono i traghetti per la Sardegna, ci sono gli aerei. L'ex prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi. I Ligresti con i prefetti hanno sempre avuto un rapporto molto attivo. I Ligresti potevano viaggiare, tra l'altro, su berline dotate di lampeggiante su concessione della prefettura. Ma ci rendiamo conto che l'ex prefetto di Milano è ospite al Tanca Village. Nel frattempo i Ligresti giravano per Milano con auto dotate di lampeggiante grazie alla concessione della prefettura. E poi anche Lombardi, Pisanu e Tabacci hanno figli che hanno avuto rapporti professionali di consulenza con Fondiaria Sai. E speriamo che abbia ragione Brian Ferri, che niente resta per sempre, che ci state facendo purtroppo rivedere la solita vecchia storia. Non vi dico i messaggi che stanno arrivando perché è una fascia protetta, però un invito, Quinto Potere, non, ma andiamo Quinto Potere, dai. Voglio che vi alziate proprio adesso, andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Ma tanto poi arriva Cottarelli, Babbo Natale Cottarelli, io veramente sono vicino, siamo tutti vicini a Cottarelli, la prego, faccia sta spending review, tagli, vediamo poi chi si opporrà, magari i dirigenti senior della pubblica amministrazione, quelli che ieri abbiamo scoperto che guadagnano il triplo dei colleghi britannici, francesi, tedeschi, no? Il sospetto ce l'avevamo che i capi dipartimento, i grandi dirigenti sono quelli che godono di un paese che soffoca nella burocrazia. Comunque, meteo, pubblicità, tanto Alcuni dicono che siamo ripetitivi, non me ne frega nulla, io non mollo il colpo, perché abbiate pazienza, ma l'obiettivo di certe persone è proprio che noi ci stanchiamo di dire certe cose, così loro possono continuare a farle senza nemmeno vergognarsi ed essere sbugiardati. Eh no, almeno fatecele dire. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso dell'Italia non reale, perché purtroppo è reale anche l'Italia che vi ho raccontato prima, Tanca Village degli Gresti, le spese, gli indagati nelle regioni e quanto spende la Camera dei Deputati per inutili iniziative culturali, inutili perché costose, fatele gratuitamente, voglio presentare un libro alla Camera dei Deputati, gratis. E poi io vorrei sapere che fa il direttore artistico a 150.000 della Camera dei Deputati. Cioè, a guardare il Parlamento un po' lo capisco. Però, direttore artistico, ciao ragazzi. Poi ci chiediamo perché ci ridono dietro in Europa. Vabbè. Allora, c'è anche un'altra Italia che purtroppo è per fortuna, perché è più onesta delle volte, ma soprattutto purtroppo perché è quella che soffre di più. E oggi la Confcommercio ha detto, attenzione, al di là delle dichiarazioni di Saccomanni, aggiungo io, la recessione non è finita, la ripresa resta una speranza, addirittura nel 2014 non faremo più 0,7 come dice la Commissione Europea, il governo dice più 1,1, ma più 0,3%, e il sud addirittura sarà in recessione. Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi della Confcommercio, buonasera. Buonasera. Bella, ma lei vuole rovinarmi il venerdì, il Natale? No, ma è che è sta cosa che addirittura lo 0,3. Dovevamo fare l'1,1, poi la commissione ci dice lo 0,7, Saccomanni dice no, sarà 1,1 e voi dite 0,3, con consumi ancora in calo per il terzo anno consecutivo. Dunque, noi non vogliamo rovinare niente a nessuno, e se ci fosse questa ricetta per cui uno dice guarda cresciamo al 3-4%, le persone stessero meglio, si riprendessero un po' in termini di fiducia e di garanzia data da queste favole, noi saremmo i primi a raccontarlo. Purtroppo è inutile inventarsi delle evoluzioni improbabili, diciamo le cose che pensiamo e che riteniamo più probabili. In realtà tra il nostro più 0,3 del 2014 e il più 0,7 della Commissione o dell'Istat non c'è grandissima differenza. Noi stiamo prendendo atto che l'altro ieri l'Istat ha detto che ancora il terzo trimestre del 2013 è negativo, quindi la recessione dura ancora, c'è ancora. Oggi le persone, i lavoratori, le imprese, i cittadini lo sanno benissimo perché la vivono quotidianamente. Ci sembra che anche dato il tenore di questa legge di stabilità, che non taglia le spese e non riduce le imposte, ma anzi blinda la pressione fiscale oltre il 44%, ecco, anche dato questo documento ci sembra che le possibilità di ripresa concreta siano molto piccole, e quindi abbiamo moderatamente corretto al ribasso il PIL, ma ripeto, anche moderatamente, noi eravamo già dimezzato. 0,5, quindi eravamo rispetto all'Istat, però sono questioni veramente di decimali. No, sono d'accordo, è che in questo periodo è meglio un decimale in più che un decimale in meno. Non è che mangio dei decimali. No, lo so, ha ragione, poi bisogna vedere, perché poi noi diciamo sempre più 0,7, più 1,1, poi vai a vedere il paese, l'Italia è un paese molto lungo, e ti accorgi che al sud farà un meno 0,2, meno 0,4, magari al nord farà un più 1,2, più 1,4. Esatto, e alcune regioni problematico. Sì, certo, per cui anche tenere tutto quanto assieme è un po' grossier. Questo nel giorno in cui invece i dati del CERVED segnalano un record di fallimenti nei primi 9 mesi dell'anno a quota 10.000, la corsa non si è fermata neanche nel terzo trimestre, più 9% rispetto al 2012, tra l'altro siamo a un 12% rispetto ai primi 9 mesi del 2012, praticamente siamo a livello massimo da 10 anni nel periodo gennaio-settembre. Immagino che voi queste cose le testimoniate tutti i giorni. Purtroppo queste sono vicende note, perché i nostri associati sono i protagonisti di questi fallimenti, come anche fortunatamente di qualche successo. Ecco, i primi 9 mesi di questo 2013 sono stati molto più negativi di quanto ci aspettavamo, di quanto ci aspettavamo tutti. E quello che sfugge talvolta, anche perché poi nella confusione di cifre, sì, di numeri, di previsioni, insomma, si fa un po' di caos, è che quando guardiamo al futuro dobbiamo anche considerare, per esempio, in termini di pressione fiscale, che comunque ci sono stati già dei provvedimenti che hanno aumentato le imposte nel 2013 e che avranno i loro effetti, spiegheranno i loro effetti completamente nel 2014. Quindi è vero che la legge di stabilità riduce il carico fiscale per alcuni soggetti anche in maniera interessante. Io non disprezzerei il problema delle detrazioni, è un provvedimento buono, ma abbiamo aumentato l'IVA che cuberà 4 miliardi di gettito aggiuntivo nel 2014, no? Quindi dobbiamo fare la somma di tutti questi effetti per capire come andrà la pressione fiscale nel futuro prossimo, e secondo noi alla fine la somma dice che andremo avanti rispetto a una restrizione. Quindi, se vuole, c'è anche la nostra delusione come associazione datoriale, c'è anche la nostra delusione per aver mancato ancora una volta questo benedetto tentativo di tagliare gli sprechi, di tagliare le inefficienze. Lei ne segnalava alcuni. La cosa pazzesca è che quando uno dice, guarda, il direttore artistico mi sembra una cosa esagerata, come diceva lei, qualcuno dice, beh, va bene, cosa vuoi, 150.000 euro, non sono niente. Invece anche un euro bisogna tagliare. No, ma guarda, che ci sono due elementi molto diversi. Beh, da un lato c'è l'elemento simbolico, cioè non si è mai visto un padre di famiglia che chiede sacrifici e poi continua a spendere in ristoranti e amichette. Uno, esatto. Due, i conti poi sono, perché se il direttore artistico sarà 150.000 euro, sì, ma sono 2 milioni e 100 mila euro all'anno per mostre, convegni e marchette varie, così la dico tutta perché ce l'ho qua dall'inizio del programma questa frase, e marchette varie, perché sappiamo benissimo come funzionano queste cose, ok? Dopodiché il Montecitorio, la Camera dei Deputati, faccia i convegni, ci mancherebbe, ma gratis, presenti i libri, certo, ma gratis, il direttore artistico faccia il direttore artistico gratis, se proprio ci tiene a fare il direttore artistico a Montecitorio. A parere di Confcommercio queste sono cose fondamentali. Ci vedremo, perché Saccomanni oggi ha detto che Cottarelli riuscirà a risparmiare 1-2 punti, cioè 16 miliardi, io penso che sia possibile ridurre la spesa pubblica di 1-2 punti anche percentuali. Anche noi siamo perfettamente d'accordo. Sì, però ci tiri un po' su, perché lei sta praticamente in qualche modo, è così empatico con la crisi del commercio, bella, che oggi la sento veramente, già è venerdì, piove, ci sarà un brutto tempo. Ecco, bravo, sorrida almeno lei e la ringrazio, grazie al responsabile del centro studio della Confcommercio. Grazie a voi. Allora, a questo proposito, poi della linea al traffico, dobbiamo fare una rettifica, perché lo scorso 14 ottobre, in questo programma, è stato detto, citando l'articolo del Sole 24 Ore che ha già rettificato, che tra gli enti che avevano il maggior numero di consiglieri si segnalava l'ACEA, il consorzio ACEA di Pinerolo. Ci hanno fatto notare che non sono mai esistiti 50 consiglieri, ma semmai 5 membri del direttivo non consiglieri, che non percepiscono alcun emolumento, come da rettifica appunto che ha pubblicato Sole 24 Ore. Ci accodiamo anche noi, ci mancherebbe, quando sbagliamo chiediamo scusa e rettifichiamo. Non c'è niente da rettificare invece sull'azienda forestale della Regione Calabria, che spende 163 milioni di euro l'anno per 5.660 addetti, che sono il doppio di tutto il Canada, ma questo l'abbiamo già detto, che tra l'orso yogi è facile, e invece tra le società con il maggior numero di consiglieri da ERA, 56 consiglieri. Comunque, ormai il numero di enti partecipati dallo Stato, dagli enti locali, somma 7.771, ce lo giochiamo, 5.335 società e 2.436 consorzi. Alla faccia di ridurre le partecipazioni statali e dei comuni, delle regioni, sono aumentate nel 2012 dell'8%. E poi mi chiedete perché non faccio politica, ma perché sto meglio qua a criticare che essere inglobato da una classe politica che non si muove. Finché non cambia qualcosa, molto è meglio stare qui e cercare di parlare con la schiena dritta. È Eccolo lì, sei un demagogo da strapazze. Vabbè, si vada a rivedere però il termine demagogo, da cosa nasce e come veniva usato nell'antica Grecia. Poi, dopodiché, sarò anche un demagogo da strapazze. Non c'è nessun problema. Però non dico meno tasse per tutti, altre cose. Citiamo quello che vediamo, eh? I demagoghi. Allora, come devo interpretare certi politici o ministri? Vabbè, dai. Guido Maurino, Radio Cori, sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, c'è chi mi chiama gamba di legno, sì. Gamba di legno è veramente quello che raccontiamo, non sono io, ho la gamba di gesso. Casomai Guido, allora la borsa oggi devo dire che offre pochi spunti, meno 0,40 Milano, più 0,20 Parigi, più 0,20 Francoforte, più 0,40 Londra, c'è una debolezza del Monte dei Paschi, meno 2,60 dopo il piano di ieri che mi sembrava con conti in miglioramento, forse si attendevano un po' di più, Pop Milano meno 2,60, Pirelli meno 2,30, Buzzini c'è meno 2,30 anch'essa, Intesa San Paolo meno 2,20, Mediaset meno 1,80%, allora Monte dei Paschi, sì, per quello Mediaset e Pirelli. Per quello che riguarda Monte dei Paschi, è vero, i conti sono stati in miglioramento nei primi 9 mesi dell'anno, la banca ha perso 518 milioni di euro rispetto agli 1,5 miliardi dello scorso anno, tuttavia guardando la perdita proprio del terzo trimestre, che è stata di 138 milioni, c'erano un beneficio fiscale dovuto alla tassazione che ha influenzato positivamente, anche se comunque si tratta di una perdita, il risultato. Inoltre oggi gli analisti valutavano che sono emersi crediti deteriorati lordi per 1,6 miliardi nel trimestre rispetto al miliardo secco del primo trimestre dell'anno scorso, quindi sostanzialmente non sono stati grandissimi risultati per quello che riguarda il Monte dei Paschi, anche se comunque in miglioramento. Per quello che riguarda Pirelli si tratta di presa di beneficio dopo i rialzi che erano seguiti alla presentazione del piano industriale. Il titolo aveva raggiunto un massimo di 11,4 euro, da allora ha ritracciato leggermente. Oggi sì, qualcuno si interrogava sugli obiettivi del piano, se siano raggiungibili o meno, però in larga parte questa flessione è legata a qualche presa di beneficio dopo i rialzi dei giorni scorsi. Mediaset, in una battuta che ho 30 secondi. Sì, per quello che riguarda Mediaset, oggi sono andati male tutti gli editoriali, perché ieri Mondadori ha dato i conti. Mondadori sì, è stato fra i peggiori nel campo editoriale, ha avuto il 2,30 dopo aver perso, certo, anche il 4,5 nel corso della giornata. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda e ultima parte di Focus Economia. Chiudiamo l'approfondimento di borsa e poi i temi europei, la mezza bocciatura europea, la nostra manovra finanziaria. Allora, hanno scritto molti politici locali dicendo attenzione a fare di tutto un'erba un fascio, ci siamo molti consiglieri comunali che facciamo politiche gratuitamente con la schiena dritta. Avete ragione, io me la prendo, diciamo, con chi ha il potere decisionale. È sbagliato generalizzare anche in questo caso, ma ha scritto anche il vicepresidente, purtroppo il messaggio è sparito, ne stanno arrivando tantissimi, della provincia di Rieti, di Chieti, dicendo che loro sono usciti da tutte le partecipazioni, però ne restano ancora 7.000 con un aumento dell'8% nel 2012 degli enti partecipati, delle società partecipate da enti locali, regionali, comunali o provinciali. È uno scandalo, perché le province, i comuni, le regioni devono uscire da questi enti, metterli in concorrenza, smettere di piazzare i politici trombati in quelle, e tutti gli scandali che vediamo poi nascono anche da lì. Comunque, Guido Maurino, dicevamo, al di là di Monte dei Paschi, Mediaset e Pirelli, Fondiere Assai, che oggi va bene, e mi sembra che sia l'unica cosa che va bene in Fondiere Assai, con quello che leggiamo sulla gestione Ligresti, più 2,32%, e anche Telecom oggi ho visto in ripresa, però poi ha fatto più 0,45%, e il miglior titolo è Ferragamo tra quelle maggiore capitalizzazione, più 6,35%, quindi Ferragamo e Fondiaria. Sì, per quello che riguarda Ferragamo è stata premiata dai conti diffusi ieri. per il marchio del lusso sono continuati a crescere i ricavi sui 9 mesi, un più 10%, 915 milioni, crescono anche gli utili e questo è merito soprattutto delle ottime performance che sta registrando il gruppo sui mercati asiatici. I mercati asiatici continuano a tirare, continuano a comprare il lusso Made in Italy e i conti di Salvatore Ferragamo ne hanno beneficiato. Per quello che riguarda invece Fonsai, sono alcune sedute da quando ha pubblicato i conti che Fonsai sta andando bene. Diciamo che la nuova gestione sotto Unipol di Fondiaria Sai ha ritrovato gli utili, il gruppo ha chiuso i primi 9 mesi con profitti per 324 milioni di euro e dopo essere stata salvata, anzi adesso gli analisti si aspettano che possa dare un contributo positivo a Unipol, si aspettano che Fonsai possa dare per quest'anno una cedola, un dividendo compreso fra i 15 e i 17 centesimi per azione e questo andrà anche a beneficio di Unipol che a sua volta ieri ha promesso che la cedola resta una priorità. Bene anche Mediolanum, più 2,87 di Assorin, più 2,70, Ansaldo CTS più 2,30, Fiat più 2, Finmeccanica più 1,5, World Duty Free più 1,36, Autogrill più 1,20, tra i titoli negativi invece anche Unicredit meno 1,20 come A2A ed Enel e infine il Banco Popolare perde l'1% come le Generali e Campari. I migliori e peggiori in assoluto, Cell Therapeutics più 17,97%, Digital Brothers più 13,70%, Enervit più 17,20% e la Prema Finfinanziale più 9,60%. Peggior titolo CHL meno 14,30%, Bioera meno 12,50% e la Roma Calcio meno 9,31%. Grazie Guido Marino e buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Colli sulle 24 ore. Grazie. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, il nostro sogno di questa settimana, beh, chiaramente è non avere più un Parlamento dove si pagano 150.000 euro per il direttore artistico e 2.100.000 euro per le mostre, convegni e marchette varie, non dover più leggere di certi viaggi pagati in elicottero da parte dei politici che ho prima elencato, no? Anche l'ex ministro Beppe Pisano, tutti ospiti al Tancavilla, non tutti, quelli che abbiamo citato, Pisano, Tabacci, La Russa, e l'ex prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi, poi appunto stranamente i ligresti potevano poi viaggiare su berline dotate di lampeggiante, anche adesso viaggiano su berline dotate di lampeggiante ma in un'altra posizione, mettiamola così, su concessione della prefettura. Mamma mia quanti rapporti con i prefetti o gli allora prefetti che avevano i ligresti. Però il sogno è anche riuscire a capirci qualcosa su questa legge di stabilità, perché adesso vi faccio sentire in rapida sequenza il giudizio del commissario europeo Olli Rehn sulla legge di stabilità e poi subito dopo invece il giudizio del ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni. Sono un po' diversi perché uno dice non va bene, attenzione, ci sono un po', c'è il rischio che voi non rispettate i parametri sul debito e infatti non vi daremo il bonus perché avete un debito troppo alto. E Saccomanni invece dice no, non è stata una bocciatura. According to their draft budgetary plans and our autumn forecast, they are however. Secondo le bozze di legge presentate e le nostre previsioni, la nostra valutazione è che l'Italia è a rischio di non rispettare le regole sul deficit contenute nel patto di stabilità e di crescita. La conformità dell'Italia alle regole del debito è a rischio il prossimo anno, poiché gli adeguamenti strutturali non sono sufficienti per far rispettare i requisiti di debito che sono stati recentemente introdotti con le ultime riforme approvate. Riguardo all'Italia, posso dire che il governo ha sottolineato il suo impegno a continuare nel programma di riforme economiche per aumentare la produttività e la competitività. Tra queste, la spending review, che sarà focalizzata sulla riforma della pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni, a livello centrale e locale. Contiamo su un forte ed efficace rispetto degli impegni da parte del governo e del Parlamento italiano, sulla base dell'importante revisione delle spese e del prezioso lavoro che è in corso da parte di Carlo Cottarelli. Mr. Carlo Cottarelli, who is leading this expenditure review work. Siamo incoraggiati dal fatto che in nessun paese ci sono deviazioni serie e che diciamo non c'è bisogno di fare aggiustamenti sui bilanci in corso. Quindi ho letto da qualche parte che dice questa è una brutta storia, non mi pare che sia una brutta storia, è una storia in corso, è un dialogo che noi stiamo facendo, la Commissione ci dà delle indicazioni, questo rafforzerà sicuramente l'attività del governo nelle prossime settimane e questo diciamo è un fatto che diciamo, io considero positivo. Boh, non ho capito chi abbia ragione, ma mi aiuteranno in questa mia non comprensione. Da un lato l'editorialista del Sole 24 Ore, soprattutto sui temi europei, Adriana Ceretelli. Buonasera Adriana. Buonasera. E dall'altro il direttore del Center for European Policy Studies, Daniel Gross, in collegamento da Bruxelles. Buonasera anche lei, direttore. Buonasera. I have a dream that one day on the red hills of Troy, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, Adriana Ceretelli, ha ragione Olly Rehn o ha ragione Saccomanni? Beh, come sempre voglio dire, ci sono le sfumature, però io posso dire che leggendo diciamo la pagella sul nostro programma di stabilità mi sembrava di tornare indietro nel tempo, quando si diceva che questo era lacunoso, che quell'altro non era chiaro, che bisognava capire, oltre al fatto appunto che c'è un dato concreto, quello che dice il debito non cala abbastanza, per cui non si beneficerà appunto di una certa elasticità nell'interpretazione del deficit, in modo tale da poter utilizzare parte delle risorse per investimenti. No, io direi che così l'impressione è di una pagella abbastanza negativa, sia pure espressa con i toni più soft possibili, perché nessuno vuole andare a svegliare i cani che dormono, tantomeno i mercati, però non è certamente una pagella con dei voti da cui emerge un giudizio positivo per l'azione del governo, non solo sui conti pubblici ma anche sul lato delle riforme. In sostanza, voglio dire, in Europa tutti più o meno hanno tagliato la spesa, a parte la Francia che nicchia, e noi siamo insieme alla Francia quelli che tendono come sempre ad aumentare le tasse invece che tagliare le spese. Insomma, sono le cose che ben sappiamo tristemente e che alla fine anche a Bruxelles vengono percepite. E quindi, senza contare la montagna di emendamenti che ci sono sulla legge di stabilità, per cui non si capisce neanche bene che cosa è stato presentato, ma questo lo dico dal punto di vista italiano, ma non è che a Bruxelles non leggano i giornali e non sappiano queste cose. Quindi insomma, ecco, non è un giudizio sicuramente del quale andare fiero. Dopodiché, come sempre, abbiamo un anno davanti e quindi poi si vedrà quello che succederà. Certo che le prospettive di crescita sono quelle che sono e quindi per il debito o si incide davvero prendendo dei provvedimenti o non si può sperare per il momento in una crescita che allenti la pressione. E non c'è dubbio che i nuovi patti europei, il 2-pack, il 6-pack e compagnia, impongono che questo debito cali. Non si può più scherzare con il debito, non si può più trascurare. Ci siamo impegnati a farlo calare. Sì, ecco, personalmente io sul Fiscal Compact, ne faremo di puntate, penso che sia una follia, bisogna anche avere il coraggio di dire che è un elemento che è prociclico, cioè rischia di recessivo. Ma io sono assolutamente d'accordo recessivo. Che è una follia, il problema è che non l'ho approvato io, l'ha approvato il Parlamento, neanch'io. L'ha approvato il Governo, certo. Abbiamo preso degli impegni, vabbè, dobbiamo mettere la testa nella ghigliottina. abbiamo messo la testa nella ghigliottina, si può anche chiedere al boia di fermarsi però a un certo momento. Però vorrei sentire Daniel Gross su questo, perché a me sembra che la cosa più importante di quello che ha detto Olly Rehn è: attenzione, voi non avrete il trattamento di favore che hanno avuto Francia e Spagna, che possono sforare il deficit oltre il 3%, non è poca cosa fare un 3,5, vorrebbe dire 7, 8, 9 miliardi in più da spendere, perché avete un debito troppo alto che non si sta riducendo. Il commento su questo, e poi un'ultima domanda per lei, Gross, rapidamente anche sulla posizione tedesca di ieri, mi interessa molto la sua opinione. Gross. Infatti è molto semplice, adesso il nord italiano viene al pettine, il vero nodo non è il deficit, ma il debito. Questo si sapeva, il governo lo doveva sapere, e penso che o si farà qualcosa l'anno prossimo, o per l'Italia ci si mette su, una, su un piano inclinato che è molto pericoloso, perché se c'è un paese che è veramente sull'orlo di quello che si può permettere in termini di debito, non soltanto perché lo dice Bruxelles, ma anche perché c'è sempre in agguato il mercato, penso che sia l'Italia. Però per farlo deve essere fatto una cosa. Quindi lei dice il debito è sull'orlo, o si mette mano o no. Quindi lei è a favore del fiscal compact, che a me sembra una, noi dobbiamo tagliare, portare il debito al 60%, vuol dire tagliarlo del 3% ogni anno, sono 20 miliardi di euro all'anno in meno da spendere. Lei è a favore di questo? Bisogna poi iniziare qualche parte. Negli ultimi 15 anni non si è mai iniziato, iniziamo questa situazione di adesso. E per di più penso che dopo il costo dell'aggiustamento che è stato fatto l'anno passato, quest'anno, l'anno prossimo, la congiuntura dovrebbe andare un po' meglio, per cui l'economia italiana dovrebbe essere in grado di sopportare qualche aggiustamento fiscale. Sì, basta non ammazzare la ripresa nella culla, grossa, perché è così debole l'anno prossimo che basta poco per annullarla. Prima il direttore del Centro Studi di Confcommercio diceva che loro stimano un PIL al più 0,3, non più più 0,7, neanche più 1,1 come stima il governo. Mi dica una cosa però, la posizione tedesca di ieri è molto irritata su questo, ma il problema non è che la Germania deve smettere di esportare, deve iniziare a investire, a spendere, è un po' diverso, no? Giusto, cioè, i giornali tedeschi sbagliano completamente, scrivono che il mondo muove in India, la forza delle esportazioni non sta lì, cioè la Germania non importa abbastanza, secondo me non importa abbastanza per il suo stesso bene e benessere. Il problema è, anche se lo facesse, gran parte di queste importazioni verrebbero dalla Cina, dalla Polonia, dai Paesi Bassi, e poco dall'Italia. Per cui la Germania, anche se facesse la cosa che dovrebbe fare secondo me, non potrebbe salvare così l'Italia o la Spagna. Quindi lei dice, perché l'audio è un po' scadente, lei dice... è vero che la Germania deve investire di più e consumare di più, e il problema non è l'export, come dicono i giornali tedeschi in maniera un po' di parte, però attenzione che il fatto che i tedeschi si mettono a investire di più e a consumare di più non è detto che avvantaggi necessariamente l'Italia o la Spagna, perché possono importare beni dalla Polonia, dalla Cina, da Paesi Bassi e da altre realtà. Adriana Ceretelli, su questo, allora, insomma, come si tiene assieme una Commissione europea che dice all'Italia non ti diamo nessun bonus perché non hai fatto ancora abbastanza sul debito, e a mio avviso e non mollerà il colpo sul fiscal compact, è una Germania che, se solo le si dice occhio che stai investendo poco e risparmiando troppo, sei troppo ricca, inizia a distribuire qualcosa, reagisce in maniera così piccata. Ma c'è ancora questa Europa dell'euro o no? è una bella domanda. Sì, formalmente c'è l'Europa, più che l'Europa dell'euro, c'è l'Europa, di fatto è un'Europa che invece che integrarsi di più sembra che si stia dividendo sempre di più, nel senso, io non sono tra quelli che dicono che non dobbiamo rispettare i patti, l'ho detto prima, non dovevamo sottoscriverli, ma una volta che li abbiamo sottoscritti bisogna rispettarli o rinegoziarli, ma non so se ne abbiamo la forza. La Germania fa la politica tedesca, non fa più una politica europea, fa la politica del suo interesse. Una volta la Germania faceva anche una politica europea e faceva una seria politica europea, anche solidale, perché la solidarietà era nel suo interesse. e io credo che la solidarietà ancora sia nel suo interesse, anche se l'economia si sta mondializzando molto più della media delle economie europee. Però questa è un'altra Germania, una Germania più tedesca, più nazionalista, che fa solo quello che le conviene e che ha perso il senso dell'Europa e dei vantaggi che l'Europa le dà, che sono indubbi, perché la Germania è la massima beneficiaria oggi dell'Europa. Però purtroppo la popolazione e la classe politica in parte lo riconosce fino a un certo punto, e quindi questi sono i risultati. Grazie, devo veramente chiudere. Grazie a Daniel Gross in collegamento con noi da Bruxelles, Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore, e come sempre 10 secondi di ringraziamenti però anche questa settimana. Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di un buon fine settimana, soprattutto a chi lo passerà lavorando. E noi ci risentiamo lunedì con Focus Economia dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.